Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, sono le 17 e 14 minuti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Focus Economia, una puntata un po' speciale perché ovviamente diamo spazio a tutte le notizie che arrivano da Viareggio e per cui un'edizione più lunga alle 17 del giornale radio e poi ci fermeremo alle 18 per oggi per lasciare altro spazio ad uno speciale dalle 18 alle 18:30, proprio per seguire tutti gli sviluppi di questa sciagura che si è verificata la notte scorsa a Viareggio. Oggi però di che cosa parleremo in questo spazio a noi dedicato, anche se ridotto? Parleremo di inflazione in calo, ma vedremo che questo non porta solo benefici e poi che quindi anche qui parliamo in qualche modo di crisi e poi ancora parleremo di immigrazione, un rapporto dell'OCSE, anche in questo caso la crisi c'entra perché sta provocando un calo dei flussi migratori e anche questo ha degli aspetti negativi e poi daremo spazio ovviamente come ogni giorno ai mercati. Vado subito a raccontarvi che cosa sta succedendo sui listini, una giornata che era partita con il segno più, anche se piuttosto debole, e poi l'apertura di Wall Street all'inizio incerta e poi il segno meno. In questo momento il Dow Jones sta cedendo l'1,33%, il Nasdaq lo 0,61%, lo Standard & Poor's l'1,26%. In Europa Parigi sta cedendo l'1,88%, Francoforte l'1,64%, Londra poco più di un punto percentuale, Milano resiste meglio, il FTSE Italia All Share cede lo 0,59% e il FTSE MIB lo 0,63%. 349-238-6666 per i vostri SMS. Adesso le notizie in breve. Il petrolio a New York apre a $71,21 al barile con una lieve flessione dello 0,4%. E a proposito di petrolio, l'ENI ha presentato la migliore offerta sotto il profilo tecnico per lo sviluppo del giacimento di petrolio di Zubair nel sud dell'Iraq, questo secondo le valutazioni del Ministero del Petrolio. L'Iraq ha ricevuto varie offerte per il giacimento e il gruppo guidato da ENI, dopo le valutazioni delle autorità locali, si è classificato al primo posto davanti nell'ordine a BP, a Royal Dutch, Shell, ExxonMobil che corrono insieme. Il Ministero del Petrolio ha però chiesto all'ENI di abbassare del 50% la stima economica dei costi da affrontare per l'estrazione. L'Euribor, il tasso Euribor trimestrale, quello a cui le banche si prestano depositi in euro alla scadenza dei tre mesi, è sceso oggi all'1,10% dall'1,11% di ieri, segnando un nuovo minimo record. Siamo in Europa, parliamo di Banca Centrale Europea, netta frenata dei prestiti al settore privato e quindi famiglie e imprese in Europa che a maggio hanno visto il tasso di crescita più basso finora registrato dalle serie storiche. Secondo la Banca Centrale Europea i prestiti al settore privato hanno segnato un rialzo dell'1,8% su base annua dopo il 2,3 di aprile, aumentando dello 0,2 su base mensile, primo rialzo in 4 mesi. La recessione sta spingendo molte aziende a tagliare gli investimenti, riducendo così la domanda di prestiti, mentre le banche di Eurolandia adottano una politica del credito, diciamo così, più rigida contro la crisi. Strigliata del premier russo Vladimir Putin ai dirigenti delle banche pubbliche, ai quali ha dato 3 mesi di tempo per concedere prestiti per almeno 13 miliardi di dollari alle maggiori società russe, vietando loro di andare in vacanza finché non avranno eseguito le sue disposizioni. Questo è quanto riferiscono i media russi. In Germania il numero di disoccupati è salito a giugno ai massimi dal 2007, con sempre più aziende costrette a tagliare posti di lavoro per affrontare la recessione. Il numero dei senza occupazione è salito di 31.000 unità a 3,5 milioni secondo l'Agenzia Federale del Lavoro. Il tasso di disoccupazione destagionalizzato è salito all'8,3% dall'8,2% del mese precedente. In Gran Bretagna il prodotto interno lordo nel primo trimestre di quest'anno ha segnato una contrazione del 4,9%, la più forte mai registrata dalle serie storiche disponibili. Il PIL ha appunto segnato una flessione del 4,9% su base annua, ha rivisto in peggio rispetto alla stima precedente che segnava un meno 4,1%. Si tratta del calo più forte almeno dal 1958. Altro calo record in Irlanda, il paese ha registrato un calo del prodotto interno lordo dell'8,5% nel primo trimestre 2009 dopo il meno 8% dei tre mesi precedenti. Andiamo in Honduras, la Banca Mondiale sospende a causa della crisi e del golpe gli aiuti all'Honduras, questo è quanto ha detto, secondo l'agenzia Bloomberg, il presidente dell'Istituto di Washington, Robert Zoellig. Per la prima volta dagli anni Ottanta la crisi economica potrà provocare un calo consistente del numero di immigrati che vengono a lavorare nei paesi dell'OCSE. Questo è quanto ha detto il segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico Gurria, presentando questa mattina a Parigi in una conferenza stampa proprio il rapporto sulle migrazioni. E di questo parleremo più avanti nel programma. Ancora di crisi, sulla crisi è intervenuto quest'oggi anche il premier Silvio Berlusconi, basta, smettiamola di leggere enfaticamente della crisi e della paura che dipende dai nostri comportamenti, questo è quanto ha detto Berlusconi nel corso di una manifestazione dell'Unione Industriale di Napoli al Teatro San Carlo e lo avete sentito la sua voce anche nel corso del nostro giornale radio. Però a proposito della crisi, a settembre bisogna riprendere l'iniziativa su questi temi del lavoro, dell'occupazione, una mobilitazione in grado di durare nel tempo, questo è quanto annunciato il segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani, secondo il quale dovranno essere ripresi tutti i temi già anticipati dalla manifestazione del 4 aprile scorso proprio su crisi e occupazione. E poi l'ultima delle nostre notizie sulle pensioni. Da domani entra in vigore il sistema introdotto dalla riforma Prodi-Damiano del 2007. Per lasciare il lavoro bisognerà raggiungere quota 95, intesa come somma dell'età anagrafica e degli anni contributivi. Dunque 59 anni e 36 di contributi oppure 60 anni di età e 35 di contributi. Può invece continuare ad andare in pensione a qualsiasi età chi ha 40 anni di contributi. E adesso spazio al nostro primo tema di approfondimento, che è quello relativo all'inflazione. Parliamo di inflazione perché oggi ovviamente sono usciti i dati dell'Istat, dati dell'Istat per quanto riguarda l'Italia, però inflazione anche per quanto riguarda gli altri paesi. Allora è negativa per la prima volta l'inflazione nella zona euro. A giugno 2009 il tasso annuale è sceso a meno 0,1%, segnalando cioè un lieve calo del livello dei prezzi rispetto a giugno dello scorso anno. Questo è quanto ha comunicato Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione, nella sua stima flash che dovrà poi essere confermata il prossimo 15 luglio. Cosa succede in Italia? Il tasso di inflazione a giugno è sceso allo 0,5%, qui c'è ancora un segno più rispetto allo 0,9% registrato a maggio, lo ha comunicato l'Istat sempre nella sua stima provvisoria. Su base mensile i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,1%. Che cosa ci dice l'Istat? Ci dice che il tasso di inflazione registrato a giugno è il più basso dal settembre del 1968, quando si attestò allo 0,4%. Che cosa succederebbe se si continuasse a registrare lo stesso livello registrato a giugno? Succederebbe che l'inflazione a fine anno sarebbe allo 0,7% e quindi l'inflazione acquisita per il 2009 è pari allo 0,7%. Però che cosa succede? Succede che secondo l'ISAE, ad esempio, nei prossimi mesi l'inflazione calerà ancora. Adesso sentiamo che cosa ci racconta più nel dettaglio la nostra scheda. Mentre nell'area euro fa capolino lo spauracchio della deflazione, l'Italia ritrova il livello di carovita più basso da oltre 40 anni. Solo un anno fa l'inflazione nel nostro paese superava il 4%, ma a partire da settembre il rallentamento della crescita dei prezzi si è fatto via via più marcato, fino a raggiungere l'attuale 0,5%. In giugno i prezzi sono stati principalmente la voce trasporti. Innanzitutto grazie ai carburanti, che sebbene siano rincarati nell'ultimo mese, mantengono costi più bassi dello scorso anno del 14% per la benzina e di ben il 27% per il gasolio. Forte è anche il calo dei biglietti aerei, che si pagano mediamente il 19% in meno del giugno 2008. Al contrario, sono più care le tariffe ferroviarie, più 6%, e quelle dei traghetti, più 8%. Buone notizie per chi si appresta ad andare in vacanza. I prezzi degli alberghi sono più bassi del 3% rispetto a un anno fa, mentre, al contrario, risultano più salati del 2,4% i conti di bar e ristoranti. Nel settore alimentari è sostanzialmente stabile il prezzo del pane. La pasta, nonostante i cali degli ultimi mesi, rimane più cara di un anno fa del 2%, così come frutta e verdura, che si pagano in media il 2,8% in più. Piccoli aumenti, infine, per quel che riguarda scarpe e vestiti, mentre, ancora una volta, risultano in discesa le spese per la telefonia, diminuite dello 0,9% solo nell'ultimo mese. Fin qui i dati, per saperne di più però siamo in collegamento con l'economista del Centro Studi del REF, Donato Berardi. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, dottor Berardi, partiamo proprio dal dato, questo 0,5% per l'Italia, a fronte anche di un aumento del costo del petrolio che ovviamente si è riversato ad esempio sulla benzina e sul gasolio, ma che evidentemente è stato totalmente assorbito come rialzo. Sicuramente c'è stata in questi mesi una prima inversione delle materie prime, con esse anche del petrolio. C'erano però tuttavia dei ribassi importanti precedenti, in particolare sul versante delle materie prime alimentari. L'inflazione alimentare ha continuato a scendere ed ha evidentemente compensato anche questa prima svolta dei prodotti energetici. Senta, dottor Berardi, un dato così non lo si vedeva in Italia dal 68, quando il dato fu allo 0,4%, se non ricordo male. Ci sono delle analogie come periodo storico-economico? Direi analogie no, evidentemente quello era un periodo, come dire, di bassa inflazione ma di forte crescita. Oggi uniamo, come dire, un binomio di bassa inflazione ma anche di economia in qualche modo in recessione. Quindi, se vogliamo, oggi è una fase di deflazione meno virtuosa rispetto a quella che poteva essere stimolata in quel periodo dalla crescita della produttività. Quindi evidentemente una disinflazione che ha una matrice che deve essere un pochino più controllata. Per quanto riguarda le previsioni, quindi che cosa succederà nei prossimi mesi? Molti parlano di un'inflazione vicina allo zero. È un destino in qualche modo, io dico, inevitabile, ed è un destino in buona misura tracciato, nonostante il fatto che appunto il petrolio abbia negli ultimi mesi messo a segno degli importanti recuperi. Ed è in buona misura tracciato perché abbiamo alle spalle un periodo appunto di forte discesa delle quotazioni del petrolio e delle altre materie prime, di economia per l'appunto che ha messo a segno probabilmente la peggiore recessione della storia del dopoguerra, e evidentemente anche i prezzi a tutte le fasi della filiera stanno scendendo, anche l'inflazione al consumo non può che scendere. Guardandoci un po' intorno, è un destino a cui sono andati incontro altri paesi in Europa, l'inflazione è già in negativo, quindi siamo a 0,1 nei paesi, nei 16, e negli Stati Uniti è sotto di oltre un punto percentuale, quindi siamo già in deflazione. Possiamo spiegare in parole semplici che cosa vuol dire concretamente anche? Beh, non siamo tecnicamente, da un punto di vista tecnico, in deflazione, nel senso che da un punto di vista tecnico la deflazione deve essere letta come una, come dire, un trend in buona misura permanente e diffuso di decremento, cioè di diminuzione dei prezzi al sì. consumo. I prezzi al consumo devono scendere, e devono scendere anche per un periodo di tempo sufficientemente ampio, quindi non un mese, perché in questo caso è un'accidentalità di percorso, ma, come dire, per più mesi consecutivi. E in qualche modo la deflazione, che di per sé può essere un fenomeno buono, quest'anno in buona misura il miglior supporto che c'è stato ai consumi delle famiglie, quindi al potere d'acquisto, è proprio venuto dalla discesa dell'inflazione, diventa un pochino, tra virgolette, un segnale di allarme quando tende ad essere persistente ed in particolare tende a travasarsi sulle aspettative future, cioè non tanto i prezzi scendono oggi, quanto iniziamo ad aspettarci un po' tutti che scendano anche in futuro, e questo evidentemente implica che si dilazionano poi le spese, si rimandano al futuro quando i prezzi saranno più bassi gli acquisti, e quindi inevitabilmente questo tende ad alimentare una spirale per cui si hanno meno consumi e a sua volta meno prezzi. Questo è un po' l'aspetto che dobbiamo scongiurare, e credo che in questo senso la BCE stia cercando in tutti i modi possibili di ancorare le aspettative verso l'alto. Non è un, come dire, un lavoro facile, perché molto dipenderà da quello che sarà l'impatto sull'occupazione, quindi sul mercato del lavoro, di questa crisi, di cui grossa parte probabilmente ancora da venire. Quindi l'autunno sarà un pochino in questo senso ciò che segnerà, demarcherà la differenza tra uno scenario di bassa inflazione e uno scenario invece in senso stretto poi di deflazione. L'ultima domanda, un'osservazione in realtà, dottor Berardi, mi riallaccio a quello che lei stava dicendo qualche istante fa, cioè che i bassi prezzi hanno aiutato il potere d'acquisto delle famiglie fino a questo momento, almeno in parte. Mi io le chiedo, questa inflazione così bassa, quindi questa discesa dei prezzi, non è stata determinata fondamentalmente dal calo della domanda? Quindi voglio dire, nonostante i bassi prezzi, poi alla fin fine il potere d'acquisto delle famiglie è stato comunque limitato. Buona misura quella che abbiamo visto fin oggi è un rallentamento dell'inflazione che ha una sua matrice nelle materie prime, quindi nella come dire, se vogliamo, l'esito della crisi finanziaria, la fine della speculazione sui mercati all'origine e comunque il ribasso del petrolio e delle altre materie prime. Gli effetti dell'economia reale sull'inflazione, quindi la retroazione della bassa crescita, dei bassi consumi sull'inflazione, sono invece il capitolo che si apre nella seconda metà dell'anno, e qui evidentemente è tutta una storia ancora da scrivere. Se l'impatto, come dire, sulla crescita che passa attraverso il mercato del lavoro sarà severo, sì, come severo appare l'impatto fino ad oggi sulla produzione, è evidente che ci incamminiamo in un settore in cui l'inflazione ve ne sarà sempre meno, fino a quando evidentemente non si apriranno le porte alla deflazione. Se invece dall'autunno le probabilità in questo senso ci sono relativamente più basse di quelle di una ripresa, però ci sono, se invece dovesse intravedersi un qualche segnale di recupero dell'economia reale, allora forse questo scenario potrebbe essere scongiurato. La ringrazio molto, grazie a Donato Berardi per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata, a risentirci. Però i commenti dal punto di vista politico e anche imprenditoriale sono stati un po' diversi. I dati diffusi oggi dall'Istat sull'inflazione ai minimi dal settembre del 68 per la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia dimostrano che siamo di fronte a una congiuntura molto negativa. La Marcegaglia ha ribadito che non c'è, come dicono alcuni, il rischio di una crescita dell'inflazione, per questo continuiamo a richiamare l'attenzione sulla crisi, ha proseguito la presidente. Di diverso parere, almeno così sembra dalle sue parole, il ministro del welfare, perché la crisi ha alle spalle il peggio del peggio, ovvero la soluzione finale del sistema capitalistico che abbiamo temuto, e non c'è stato per fortuna perché gli stati sono intervenuti. Questo ha detto Maurizio Sacconi rispondendo proprio a quei giornalisti che gli chiedevano un commento sui dati dell'inflazione diffusi oggi dall'Istat. Le 17:37 minuti in questo istante, 349-238-6666 per inviare i vostri sms. Adesso, come avviene ogni pomeriggio, andiamo a vedere che cosa è successo sui mercati. Oggi lo facciamo in compagnia del collega di Radiocor Guido Maurino, che saluto. Buonasera Guido. Buonasera. Allora, prima di cominciare però diamo un rapido sguardo su che cosa sta accadendo sui mercati. Il Dow Jones cede 1,5%, il Nasdaq lo 0,86%, lo Standard & Poor's 1,5%, lieve recupero per quanto riguarda l'Europa, Parigi meno 1,67%, Francoforte meno 1,56%, Londra meno 1,07%, Milano, il FTSE Italia All Share cede lo 0,18%, in chiusura il FTSE MIB lo 0,17%. Possiamo dire, Guido, che dal momento in cui è aperto Wall Street le cose per l'Europa sono andate decisamente peggio. Sì, come dicevi tu, sostanzialmente ad andare a pesare sui listini è stato principalmente il dato sulla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, che inaspettatamente è sceso mentre gli analisti si aspettavano un suo incremento. Da quel momento le borse hanno girato in modo in negativo. In Europa è andata peggio rispetto all'Italia, i cali sono stati in tutte le principali piazze superiori al punto percentuale, mentre in fondo Milano ha ancora limitato la flessione, anche perché il settore bancario oggi è andato abbastanza bene a Milano. E infatti partiamo proprio da lì, perché il titolo migliore è stato il Banco Popolare, che ha segnato un rialzo del 5,66%, bene anche Monte dei Paschi, più 4,54%. Sì, il Banco Popolare oggi è stato in forte rialzo, il titolo ha beneficiato di un report sul settore bancario italiano da parte della banca d'affari HSBC, che ha alzato le stime degli utili per azione del 7% nel 2009 e del 96% nel 2010. In particolare, per quanto riguarda proprio il Banco Popolare, gli analisti hanno alzato il giudizio sul titolo da underweight sottopesare a neutral, fissando il prezzo obiettivo a 5,3 euro rispetto ai precedenti 1,3 euro. È andato bene anche Monte dei Paschi, un po' per la stessa ragione, anche qui c'è stata una promozione con una revisione al rialzo del prezzo obiettivo. Poi diciamo che sono andate bene anche la Banca Popolare di Milano e poi Mediobanca, insomma un po' tutto il comparto bancario. Tu ci segnalavi, vabbè, Unicredit ha ceduto lo 0,66% e anche Intesa una flessione maggiore, meno 0,86%. Sì, perché comunque Intesa è stata una delle poche banche penalizzate da questo report, in cui è stato appunto rivisto il suo prezzo obiettivo da 2,4 a 2,2 euro, quindi già per tutta la giornata, anche in mattinata, Intesa San Paolo era il titolo un attimino più debole sul settore bancario. Abbiamo visto qual è stato il titolo migliore, adesso andiamo subito a vedere qual è il peggiore, Bulgari, meno 2,06%. In questo caso pesa direttamente quello che dicevamo prima sulla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti. Ovviamente i titoli che pagano di più in questi casi sono quelli del lusso e soprattutto anche quelli più esposti sul mercato americano, per cui Bulgari ha ceduto il 2,06% in una giornata in cui comunque anche il resto del lusso ha pagato un pochettino. Luxottica ha ceduto lo 0,13%, Geox lo 0,10%, sostanzialmente non una giornata brillante per i titoli del lusso. Andiamo a vedere anche altre tipologie di titoli, pesante Pirelli Real Estate. Sì, su Pirelli Real Estate continua a pesare questo aumento di capitale fatto a forte sconto. Venerdì scorso sono terminate le negoziazioni sui diritti, questo venerdì invece terminerà l'aumento di capitale vero e proprio. Oggi il titolo ha perso il 16,11%, gli analisti sostanzialmente ci fanno notare come man mano che passa il tempo il titolo si stia allineando ai valori post aumento di capitale, e quindi il titolo anche oggi ha perso il 16%. Invece sale ERG. Sì, ERG è stato, diciamo, uno dei pochi titoli petroliferi positivi oggi, ha guadagnato a lungo oltre il 2,5% per poi chiudere. Ha ritracciato un po' nel finale. Ha chiuso a più 0,72%. Anche perché appunto dopo i dati americani anche il prezzo del petrolio in qualche modo è sceso, per cui ovviamente si è andato a ripercuotere anche sul titolo. Però ERG oggi ha comunque beneficiato, anche se alla fine solo in parte, di un report positivo di UBS. Gli analisti della banca d'affari svizzera hanno sottolineato come il titolo abbia perso circa il 20% dai picchi di aprile, e a questi prezzi quindi loro consigliano di acquistare con un prezzo obiettivo che può arrivare fino a 12 euro. E poi arriviamo alla storia infinita della Roma, oggi la chiusura in rialzo più 6,5%. Sì, perché è veramente una storia senza fine, una telenovela, come qualcuno l'ha definita. Eh sì, perché non si riesce a capire da che parte andrà, chi la vuole e chi non la vuole. Oggi l'ultima puntata l'ha scritta il Messaggero, secondo cui Mediobanca e Unicredit hanno trovato l'accordo su un nome, si parla di un commercialista romano, che gestirà la cessione della società. Adesso si discute ancora su quale sarà l'incarico che dovrà assumere questo commercialista, però in qualche modo si scommette, diciamo, che la cessione a questo punto possa essere più vicina. Più vicina, anche perché dobbiamo comunque dire che la parola di Unicredit è sempre molto pesante in qualsiasi trattativa che riguardi la Roma. Sì, poi è arrivato anche comunque un segnale positivo, diciamo, dal vicepresidente di Unicredit, che ha negato che la banca possa intraprendere una procedura contro Italpetroli, sì, della famiglia Sensi, e anche questo in qualche modo ha aiutato. Certo. Diciamo così. Grazie a Guido Maurino per averci illuminato su questa giornata di borsa. A lui buon lavoro, buon pomeriggio. E a proposito di viabilità per quanto riguarda i treni, dobbiamo segnalarvi un'agenzia uscita poco fa. Per domani è stato proclamato un'ora di sciopero su tutta la rete ferroviaria nazionale. A proposito ancora di viabilità, un ascoltatore ci racconta che intorno a Roma, sulla Pontina in direzione di Terracina, il traffico è congestionato. Ve l'ho raccontato anche perché nel nostro appuntamento dedicato alla viabilità non era stata menzionata questa difficoltà proprio sulla Pontina. E adesso un altro tema di approfondimento, ci occupiamo di migrazione e del mercato del lavoro. E ce ne occupiamo perché questa mattina a Parigi sono stati presentati i risultati dell'International Migration Outlook 2009, il rapporto sulle migrazioni curato dall'OCSE. In primo piano la crisi economica, l'impatto sulle migrazioni internazionali, la gestione dei flussi migratori, l'integrazione sul mercato del lavoro degli immigrati e dei loro figli. E allora, che cosa ci racconta l'OCSE? Ci racconta che per la prima volta dagli anni 80 la crisi economica potrà provocare un calo consistente del numero di immigrati che vengono a lavorare nei paesi dell'OCSE. Questo è quanto ha detto il segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico Gurria, proprio presentando questa mattina il rapporto sulle migrazioni. Questo fenomeno in calo si può già osservare in paesi come la Spagna, l'Irlanda, la Gran Bretagna. Secondo Gurria, i lavoratori immigrati sono i più colpiti dal deterioramento della situazione del mercato del lavoro. Noi parliamo di tutto questo con il professor Giorgio Barba Navaretti dell'Università Statale di Milano. Buonasera professore. Buon pomeriggio a voi. Allora, come già annunciato, a Parigi è stato presentati i risultati dell'International Migration Outlook 2009, rapporto sulle migrazioni curato appunto dall'OCSE. Sentiamo quanto ha detto in proposito il direttore generale dell'OCSE, Gurria, che ovviamente ha fatto delle considerazioni a proposito del rapporto. Sentiamolo. Migrants are among the hardest hit labor force groups. Gli immigrati sono la forza lavoro più colpita in un periodo di crisi economica come l'attuale. In molti paesi OCSE il tasso di disoccupazione degli immigrati cresce molto più rapidamente rispetto a quello dei nativi. In Spagna più di un immigrato lavoratore su quattro ha perso il suo posto, una proporzione che arriva fino a 2 su 5 quando si considerano gli immigrati che vengono dall'Africa. Spesso inoltre gli immigrati lavorano in ambienti poco sicuri e con mansioni poco valorizzanti. E sono proprio questi i lavori che per primi spariscono in un contesto di recessione economica. Molti dei paesi che più sono stati colpiti dalla contrazione economica sono quelli che hanno registrato i flussi migratori più alti nel periodo pre-crisi. Si tratta per esempio di Irlanda, Regno Unito e Spagna. I governi dovrebbero considerare il mercato del lavoro e l'integrazione degli immigrati come una priorità. Non molto tempo fa i paesi OCSE consideravano l'immigrazione come soluzione alle carenze del loro mercato del lavoro e dell'invecchiamento della popolazione. Ci sono paesi che attualmente stanno ridimensionando i loro programmi circa l'immigrazione legata al lavoro. L'Italia ha annunciato l'intenzione di ridurre la quota di lavoratori non stagionali a 0 quest'anno rispetto ai 150.000 posti dell'anno scorso. L'Australia ha ridotto la quota iniziale del 20%. Va sottolineato che non sempre la necessità di forza lavoro scompare durante la crisi economica, così come non si ferma la migrazione per ragioni umanitarie. La migrazione non è un rubinetto che si apre o si chiude a piacere. Abbiamo bisogno di politiche che rispondano alle condizioni economiche a breve termine, senza negare le necessità strutturali. C'è bisogno di politiche giuste ed efficaci su immigrazione e integrazione, in grado di funzionare sia nei momenti positivi per l'economia che in quelli negativi. Questo significa anche che i paesi OCSE devono rendere ancora più stretta la loro cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Allora, professore, questa ovviamente è la sua materia, lei ne ha già scritto. Dal rapporto emerge che appunto la crisi sta provocando il primo calo di immigrati che vengono a lavorare nei paesi dell'OCSE, nei paesi più industrializzati, il primo calo dagli anni Ottanta. Era prevedibile e le motivazioni poi che producono questo tipo di risultato? Era senz'altro prevedibile, perché è chiaro che quando c'è una riduzione della domanda di lavoro, un aumento della disoccupazione, come sta avvenendo in questo momento, diciamo i fattori che trainano l'immigrazione dai paesi di verso i paesi di destinazione vengono meno. Quindi è chiaro che le prospettive di occupazione di un immigrato oggi sono peggiori e quindi evidentemente questi sono più riluttanti ad attraversare le frontiere. Professore, nel suo intervento il direttore generale dell'OCSE, Gurria, faceva riferimento anche all'Italia, alla famosa quota zero annunciata nel decreto flussi. Molti paesi stanno comunque mettendo in atto misure molto più rigide. Perché è, tra virgolette, un male anche dare queste condizioni più rigide? Perché l'OCSE invita a non chiudere le frontiere? Perché in realtà gli lavoratori immigrati, come sappiamo, hanno una funzione fondamentale nel mercato del lavoro, nel senso che in molte funzioni sono complementari ai lavoratori nazionali, ai lavoratori nativi, perché svolgono funzioni che questi non sono più disposti a svolgere o che non riescono a fare, oppure se consideriamo i lavori più qualificati, perché evidentemente se possiamo scegliere su scala mondiale i talenti da assumere nelle imprese è più facile trovarli globalmente che non semplicemente entro i confini nazionali. Quindi diciamo il lavoro immigrato ha una funzione proprio strutturale nel mercato del lavoro, che non è semplicemente una funzione di pura sostituzione dei lavoratori nazionali, è una funzione di complemento ai lavoratori nazionali e quindi è importante fare sì che i flussi migratori in qualche modo corrispondano a quelle che sono le necessità del mercato del lavoro. E da questo punto di vista devo dire che il nostro paese è molto indietro, le politiche migratorie italiane sono molto lontane dall'obiettivo, da riuscire a raggiungere un obiettivo di in qualche modo combinare quella che è la domanda di lavori necessari che possono utilmente essere occupati dagli immigrati e i flussi di lavoratori immigrati. Professore, che succede nel momento in cui c'è la ripresa se il numero di immigrati che sono tra virgolette necessari al nostro sistema produttivo non c'è questo numero? Ma io credo che nel momento in cui ci fosse una ripresa il numero probabilmente l'immigrazione riprenderebbe a salire. La cosa più grave sarebbe che diciamo la crisi economica fosse utilizzata come una scusa per introdurre delle politiche di riduzione dei flussi migratori che hanno un effetto poi permanente di lungo periodo. Capisco che c'è un problema contingente al momento, c'è un problema di forte disoccupazione sul mercato del lavoro, ma sarebbe sbagliato se in questa fase i governi adottassero delle politiche strutturali che possono restringere la migrazione per una fase lunga, proprio perché, come ho detto prima, degli immigrati avremo bisogno e ne avremo sempre più bisogno data la demografia dei nostri paesi, dove nei prossimi anni usciranno dal mercato del lavoro i nostri lavoratori anziani che non saranno rimpiazzati da quelli più giovani. Certo, però il flusso di per sé non è, appunto come diceva anche Gurria, un rubinetto, cioè non è che si può aprire e chiudere istantaneamente. Ecco, e quindi diciamo anche per quale motivo non è possibile poi far riprendere istantaneamente il flusso? Ma quello che dice, perché io penso che sia necessario distinguere tra quella che è un obiettivo di breve periodo e quello che è un obiettivo di lungo periodo. L'integrazione attiva dell'immigrazione richiede delle politiche strutturali, che sono delle politiche che vanno messe in atto col tempo, che permettono appunto di far affluire gli immigrati verso le occupazioni dove questi tipi di lavoratori sono necessari, e questo non si costruisce da un giorno all'altro o limitando semplicemente i flussi senza tenere conto di quella che può essere la domanda di lavoro. Quindi da questo punto di vista dobbiamo iniziare a ragionare su come integrare i nostri immigrati con un'ottica di lungo periodo. Credo che questo è il messaggio fondamentale che emerge dal discorso di Goria, e questo vale in una fase normale come in una fase di crisi, che è quella che stiamo vivendo ora. Grazie al professor Giorgio Barba Navaretti per essere stato con noi. A lui buon lavoro. Grazie a voi. Ci restano poco meno di 2 minuti prima di salutarci, per poi lasciare spazio allo speciale sull'esplosione di Viareggio. E allora alcune notizie da darvi. Prima di tutto, scendono ancora le tariffe di luce e gas dopo i ribassi di inizio anno. Dal 1 luglio l'autorità per l'energia ha infatti stabilito un'ulteriore riduzione delle condizioni economiche di riferimento: energia elettrica -1%, gas -7,7%, con un calo medio totale ponderato di circa il 5,7%. La spesa su base annua della famiglia tipo, spiega l'autorità, si riduce così ulteriormente di circa 5 euro per l'energia elettrica e di 80 euro per il gas naturale. E poi ancora il nuovo calo delle bollette di luce e gas, il terzo consecutivo da inizio anno, secondo la nota dell'autorità dell'energia, porterà comunque a un risparmio complessivo di circa 212 euro l'anno. Mentre noi eravamo in onda parlava il ministro dell'economia Giulio Tremonti, una conferenza stampa a proposito del decreto presentato venerdì in Consiglio dei Ministri. Vi ricordiamo punti chiave di questo decreto: la detassazione al 50% degli utili delle imprese reinvestiti in macchinari entro giugno prossimo, gli incentivi alle aziende che scelgono di non licenziare o reintegrano cassa integrati, pagamenti più rapidi della pubblica amministrazione, riduzioni costi energie per imprese e famiglie, poi rimborso al 71% degli obbligazionisti all'Italia. Tremonti che cosa ha detto? Che sono 23 miliardi di euro le risorse sbloccate alla pubblica amministrazione per pagare le imprese. Poi ancora le norme sulle commissioni bancarie contenute nel decreto legge anticrisi, tra le quali figura quella sul massimo scoperto, comporteranno per le famiglie e le imprese un risparmio stimato intorno ai 2 miliardi di euro. Questo ha detto Giulio Tremonti, questo ci auguriamo tutti, sia come clienti che come imprese. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, in regia Filippo Aureggi. L'appuntamento con Focus Economia è rinnovato per domani alle 17:00.